conosco il vero dolore, quello che mi ha sporcato in confronto e coriandolo di carnevale. Sono pulito come panni asciugati al sole. Chi l'ha provato davvero risponde col sorriso e un ti voglio bene. Quindi rifletto, smacchio il superfluo, disegno palloni volanti e non mi conservo questa mia stanza. Ha nascosto desideri, è stata dispensa d'amore che non conservo. Ora esco e vengo da te e ridere è l'arma più grande che ho, è lo schiaffo più forte che dai. Usare la mia spalla come cuscino e ridere è l'arma più grande che ho, è l'abbraccio più forte che dai. E farti assaggiare al mio piatto sbagliato, passare la notte costruendo un domani leggero, leggero, leggero, affezionato alle ammaccature, come alle rughe che sono la mappa, i disegni del mio nome. Santi patroni, zucchero filante, il gelato dopo il mare, un altro bicchiere. Non sono niente se lontani dal buon umore, lontani da un gesto d'amore, lontani da me che ero nascosto da te. Che sei la bella copia di noi due, se il successo che non c'è puoi usare la mia spalla come cuscino, ridere veramente, ridere a crepapelle, ridere e vivere più che mai, ridere di noi è l'arma più grande che ho, è lo schiaffo più forte che dai, puoi usare la mia spalla come cuscino, e ridere è l'arma più grande che ho, è l'abbraccio più forte che dai, per farti assaggiare il mio piatto sbagliato, passare la notte costruendo un domani leggero. Grazie.